È molto molto bello, decisamente bello. Questa è dedicata a tutti voi e a tutti i bambini al mondo. È poco, però. Well, would you tell if I sang of the tune? When you stand at the world, I don't be. Let me always when I sing your song. I will try not to sing the body came. Abbiamo finito con questa canzone per un semplice motivo, perché crediamo che a volte con un piccolissimo gesto che per noi può essere insignificante, magari per molta gente è molto importante, a volte noi non ci accorgiamo che abbiamo delle cose a volte fin superflue, mentre invece alcune persone come i bambini possono avere un aiuto per mangiare, semplicemente per vestirsi o per divertirsi come un giocattolo. Noi crediamo di aver fatto un piccolo gesto per questi. Ciao a tutti da parte della Ex Genesi. Buona serata, grazie. Ciao a tutti!